alle 10. Ma soprattutto dai nostri c'è qualcuno che hanno in ascolto. E comunque non possono nemmeno parlare. Yeah. è avanti sul 10. C'è qualcuno che è risuscitato da questo canale di morti. Ragione io. 7 morti e non ve ne siete accorti. Beh, me ne vado a vedere se c'è propagazione nei canali alti. Tanto a sentire il QRM di questo canale mi prende la malinconia. Ciao a tutti. Orecchie pelose, comprese.